Non pensi che il tempo che passa ci invecchia, piripiripi. Piripiripa, piripicchio mio bel piripicchio, lo specchio che guardo non dice che invecchio, piripiripi. Piripiripa, non senti mia bella che il cuore è un venticel d'amor, che soffia e risoffia perché vuol bene solo a te. Piripicchio, non correre tanto, per farti contento sorrido poi canto, piripiripi. Piripiripa. Piripiripicchio, piripiripicchio, piripiripiripi. Piripiripicchio, piripiripicchio, piripiripiripa. Prego mia cara, non perdere tempo che scende la sera. Piripiripi. Piripiripa. Piripicchio mio caro tesoro, ma lascia che guardi i miei riccioli d'oro. Piripiripi. Piripiripa. Cammina, non farmi aspettare, la barca è già sul mar. I pesci vedranno baciar, però non sa parlare. Piripicchio felice mi sento, abbracciami pure che a me piace tanto, piripiripi. Piripiripa. Piripiripicchio, piripiripicchio,